lo scolaro, il pedante e il padrone dell'orto. Da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un ragazzaccio, allievo di collegio, vo dir due volte peste, citrullo, per cagione dell'età e per il privilegio c'hanno i pedanti di guastar le teste. Rubava con discreta abilità a un povero vicino i prodotti più belli del giardino. In primavera risplendea dei doni di flora più superbi il campicello, e Pomona serbavagli i più buoni frutti d'autunno, dando agli altri il resto. Ebbene, il ladroncello rovina e ruba i primaticci e schianta i rami della pianta, distruggendo coi fiori la speranza. Allor corre il padrone e irato canta al maestro una buona rimostranza. Che fa costui? Volendo che l'esempio fosse d'avvertimento anche agli altri bricconi, ne raccoglie nell'orto circa un cento e, citando Virgilio e Cicerone, sfodera tutto il vecchio zibaldone della sua scienza logica morale. E tanto predicò quel don fagiuolo che ebbero i cento la comodità di saccheggiare in cento luoghi il brolo. Non c'è nulla che più mi faccia nausea di una sapienza insipida ed oziosa che blatera e non sa nemmen perché. Non conosco una bestia più noiosa d'uno scolaro, e ne conosco tante, seppur non è il pedante. Li tenga Dio sempre lontan da me. Fine della favola, lo scolaro, il pedante e il padrone dell'orto. Questa registrazione è di dominio pubblico.